Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Centosettantaquattro aziende che esportano fino al 90% del loro fatturato, un valore della produzione pari a 28 miliardi di euro, secondo in Europa solo a quello della Germania. L'industria farmaceutica italiana è un'eccellenza per competitività, produttività e attività di ricerca e sviluppo. Complessivamente, nella filiera del farmaco, produttori, indotto e distribuzione, operano circa 222.000 addetti. Le 19.000 farmacie e le 8.700 parafarmacie italiane vengono rifornite capillarmente e almeno due volte al giorno dai distributori di farmaci, i siti logistici autorizzati alla distribuzione dei medicinali. Un trasporto simile a quello dei prodotti alimentari, visto che per ogni dispositivo medico registrato presso la banca dati del Ministero della Salute esiste una precisa prescrizione di trasporto. Secondo il Ministero della Salute, tra le varie tipologie di prodotti trasportati, il farmaco è quello sottoposto ai maggiori controlli, anche perché furti e frodi nel commercio di medicinali costituiscono un rischio grave per la salute pubblica, oltre che un danno per il Servizio Sanitario Nazionale. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Oggi ci occuperemo, come avete ascoltato dalla scheda iniziale, di un tipo di trasporto davvero particolare. Parliamo infatti di farmaci. La complessa catena logistica farmaceutica comincia dai magazzini di scorta dei produttori, le case farmaceutiche, arriva alle grandi piattaforme logistiche e termina con la consegna alla vastissima rete di farmacie, per lo più attraverso il trasporto leggero, con furgoni o con autovetture attrezzate. In Italia tutta la normativa di riferimento è fortemente orientata a rendere la filiera impermeabile ai prodotti contraffatti, grazie al progetto di tracciabilità del farmaco. Ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Domenico Di Giorgio, direttore dell'Ufficio Qualità dei Prodotti e Contraffazione dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Come funziona, Di Giorgio, questo sistema di tracciabilità? In Italia tutti i medicinali sono sottoposti a un sistema di serializzazione che identifica univocamente ognuna delle confezioni. Quindi il sistema che l'Europa ha lanciato a livello transnazionale con la direttiva 2011-62 in Italia è in piedi già da oltre 10 anni, per cui tutte le singole confezioni di farmaco hanno un identificativo unico che può essere seguito in tutto il suo cammino dal produttore fino alla farmacia, e questo rende molto difficile l'infiltrazione di qualsiasi tipologia di prodotto anomalo, proprio perché questa serializzazione unica rende i farmaci paragonabili, diciamo, alle banconote, con un identificativo che non può essere falsificato. Ecco, questo significa che all'interno di questo circuito non possono rientrare anche farmaci acquistati magari all'estero o comunque su altri circuiti? Non possono entrare farmaci che non abbiano subito il processo di serializzazione e approvazione in Italia. Esistono farmacie esteri che vengono importati regolarmente attraverso il canale dell'import parallelo, vengono bollinati, quindi sottoposti al sistema di tracciatura e possono entrare sul nostro mercato. Quello che non può succedere è che un operatore compri, per esempio, su internet da qualche sito illegale estero dei prodotti e li metta legalmente in vendita nelle nostre farmacie. Quello che abbiamo riscontrato è che però questo tipo di approvvigionamento improprio si usa per i canali non controllati, non so, i sexy shop per esempio, tipicamente comprano su internet farmaci irregolari che poi vendono al loro circuito di clienti. Ecco, il tema della distribuzione del farmaco alle farmacie, quindi poi ai consumatori finali, lo affronteremo tra un po' anche in compagnia di un altro ospite, però a lei volevo chiedere quanto è delicata la fase del trasferimento di questi farmaci presso i punti vendita. È il punto più critico probabilmente, perché abbiamo a livello nazionale, abbiamo avuto fino a qualche mese fa un problema grosso di attacchi addirittura agli ospedali dove venivano sottratti i farmaci che poi venivano rivenduti sui mercati esteri con false credenziali. Lo stesso canale assorbiva farmaci che venivano e vengono purtroppo rubati sul territorio tramite assalti a camion sulle strade. Quello che ha fatto l'Italia è stato mettere su dei progetti di controllo rafforzato, sempre tra amministrazioni e privati, che nel caso dei furti negli ospedali hanno eradicato il fenomeno, nel caso dei furti sul territorio hanno permesso alle forze di polizia di essere più incisive sui controlli. I prodotti contraffatti non possono e non devono entrare nella filiera, ma anche i farmaci illegali possono perdere la loro efficacia o diventare addirittura nocivi se non trasportati correttamente. Ne parliamo in compagnia di Pasquale Russo, segretario generale di Conftrasporto, associazione che da tempo segue le problematiche legate alla distribuzione del farmaco. Russo, quindi quali sono le peculiarità innanzitutto legate alla trasferimento di questo bene, di questo prodotto così delicato, qual è il farmaco? Ma la catena logistica del farmaco è molto particolare, perché bisogna assicurare l'integrità del prodotto. Evidentemente, se non si è in grado di fare questo, ne risente l'efficacia del prodotto stesso, con evidenti possibili conseguenze molto negative sulla salute del consumatore. Quindi ci troviamo in un ambito di trasporto molto regolato, perché ci sono particolari leggi che disciplinano come il trasporto di farmaci deve essere effettuato, e ci troviamo anche nell'ambito di un trasporto che deve essere professionalmente molto elevato, proprio per rispettare le regole e per garantire la qualità del prodotto. Gran parte di questi trasporti avviene su veicoli a temperatura controllata, in gergo tecnico ATP. Di cosa si tratta? Ma l'ATP è una sigla che sta ad indicare che il prodotto, in questo caso il farmaco, deve essere sempre trasportato in un ambiente con una temperatura costante. In generale, diciamo, la maggior parte dei farmaci, parliamo di una temperatura che va dai 2 ai meno 8 gradi centigradi in relazione anche al prodotto che si sta trasportando. Quindi la prima regola essenziale è che sia ovviamente un veicolo igienicamente perfetto, e certo, che non ci siano sbalzi di temperatura, che invece venga garantita i 2 o i meno 8 gradi all'interno di questa forcella, come dicevamo, in relazione alla tipologia di farmaco, proprio per evitare che le proprietà farmacologiche del prodotto non vengano alterate. Qual è in questo momento in Italia il mercato legato al trasporto e alla distribuzione del farmaco, e quali sono le criticità da affrontare? Le criticità sono soprattutto quelle legate alla necessità di garantire che ci siano operatori altamente qualificati nell'ambito di questa filiera. Noi purtroppo spesso assistiamo, soprattutto nella distribuzione finale del farmaco, per intenderci quello che è il furgoncino che arriva direttamente in farmacia, nella distribuzione finale del farmaco assistiamo molto spesso a fenomeni di abusivismo. Questo è un fatto estremamente grave, proprio perché non solo ovviamente si interviene in maniera negativa su un mercato che è quello dell'autotrasporto, falsando nella concorrenza, soprattutto si produce una conseguenza negativa sulla qualità del farmaco e quindi sulla salute dei consumatori che utilizzano quel farmaco. Quali potrebbero essere gli interventi sia sul fronte istituzionale sia tra le attività delle stesse associazioni di categoria per cercare di frenare un fenomeno di abusivismo che in questo caso è davvero deleterio per il consumatore italiano? Sono due gli aspetti. Uno riguarda a chi commissiona il trasporto, per cui, per intenderci, l'azienda farmaceutica o il player logistico al quale l'azienda farmaceutica si affida. Quindi l'azienda farmaceutica deve sempre preoccuparsi di assegnare il trasporto ad un'impresa che rispetta tutte le norme, e ricordo che nella nostra legislazione ci sono delle pesanti conseguenze per quel committente in generale che affida il trasporto a un vettore che non rispetta le regole o un vettore abusivo. Quindi il primo ambito di intervento sarebbe quello attraverso il quale bisogna far rispettare al committente la norma che vuole appunto che si scelgano trasportatori regolari. L'altra questione riguarda gli organi di controllo in generale, e cioè la polizia, carabinieri, anche vigili, perché questo è un trasporto che prevalentemente avviene in ambito urbano, e che controllino che chi trasporti questo prodotto lo faccia con un veicolo pulito, con un veicolo sano e con un veicolo la cui temperatura risponda agli standard previsti dalla legge. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli